una mostra straordinaria, è una mostra che porta attenzione non solo a ricordo, immagine, presenza, concretezza, diversificazione dell'emozione interpretando in maniera assolutamente completa e olistica tutto ciò che può essere una relazione con l'aspetto del contenuto, dell'oggetto, della vita nostra in relazione e non solo con il passare del tempo, con l'oggetto, con questa visione che dà l'artista polacco che risponde a nome di Robert Kuzmirowski con Perso Anomalia. Già il titolo ne riporta un motivo per intuire quello che dà oltremodo l'emozione di essere completamente abbracciati da strutture, da ambienti. La parola corretta è ambienti, probabilmente, come giustamente Marinella Paderni, co-curatrice dell'esposizione, ci tiene a sottolineare. È una mostra da non perdere, è un'esposizione che sarà fino al 29 settembre 2024 al Mambo. La colonna sonora sarà molto particolare. Ieri ho avuto la grande fortuna di potermi trovare così in anteprima davanti a questa esposizione. È stato motivo di grande stordimento, di rapimento, e ho voluto così radiofonicamente partecipare con una colonna sonora che per me si addice a tutto ciò. Parere personale, ovviamente. La label è la Type. Parliamo di una colonna sonora che dà alla materia, alla sensazione, alla trasmissione qualcosa che, oltre nell'aspetto noise, ha dolcezza, melodia, cura. Ecco la parola che si addice per comprendere tutto ciò. Iniziamo allora presentando questa mostra che, come ho detto, in apertura ufficiale da domani fino al 29 settembre. Iniziamo questa nostra conversazione e ci presentiamo. Siamo al Mambo, imminente l'apertura di una nuova esposizione. Siamo con la curatrice, ho il piacere di parlare con Marinella Paderni. Per una mostra dove il protagonista è Robert Kuzmirowski. E iniziamo con l'identikit dell'artista in questione? Sì, l'artista è polacco e appartiene alla generazione degli artisti che negli anni 2000 sono emersi dopo che appunto la nazione, la Polonia, è diventata una Repubblica Democratica. E quindi nel suo lavoro, nella sua ricerca in generale, c'è sempre una dimensione legata alla storia e alla memoria del suo paese, ma in generale dell'Europa. E quindi questa ricerca sulla memoria del nostro tempo è collegata sempre al passato. Questa è una cosa importante perché attraverso la esplorazione della memoria della memoria e quindi del passato si può arrivare a comprendere la nostra identità odierna, la nostra storia. Un passo indietro per farne due avanti. Esatto, proprio così. È interessante perché entrando nella mostra sembra proprio di fare non un passo indietro, sembra di farne molti di più. Perché si entra in un mondo dove il tempo sembra apparentemente essersi fermato, perché si tratta di oggetti, di situazioni, di ambienti costruiti che rimandano appunto ad un tempo indefinito che appartiene però alla nostra storia del XX e XXI secolo. Ma questi passi indietro in realtà ci portano a rivedere questi oggetti, queste cose che sembrano superati dalla modernità, dalla tecnologia, dalla nostra società di oggi, che invece hanno trattenuto ancora dentro di sé questo anelito, questo effluvio di vita che ci parla appunto di quello che noi siamo e come siamo diventati oggi. Thank you. luoghi che diventano cornice. Veramente a Bologna, non so se ricordate, il Breakfast Club con la rubrica in mostra. Esiste la rubrica in mostra da quando c'è il Breakfast, magari ecco un anno in meno perché il primo anno è stato strutturale. Però ricordate, no? Le esposizioni a Palazzo Roverella, che tra l'altro è una sede espositiva meravigliosa, per non parlare di Magnani Rocca, per portarci poi a Padova, Palazzo Reale di Milano. Anzi, ho ricevuto critiche, magari anche giustamente per questo. Però l'onestà intellettuale che contraddistingue il Breakfast Club di avere la possibilità di riportare quello che viene selezionato, quello che viene ritenuto in una linea espositiva attinente al format. Ecco Bologna, finalmente Bologna. Avete fatto caso che ultimamente la concentrazione è più sulla nostra città, perché qualitativamente dal punto di vista artistico vi è stata una crescita veramente immensa, e di questo ne sono molto molto contento. A questa crescita aggiungo le voci di Lorenzo Balbi, aggiungo le voci di Eva degli Innocenti, di Roberto Martorelli, di Elena Di Gioia, di Maria Luisa Pacelli. Insomma, questo è veramente un dream team dell'arte, che hanno portato come merita la nostra città per quanto riguarda un discorso inclusivo ed esteso artisticamente. Finalmente a Bologna, per quell'inizio molte volte la rubrica in mostra in questo modo. Tornando all'esposizione, che è da non perdere, si è circondati come l'ambiente circonda. L'ambiente, ecco la parola fondamentale, o tra le parole, perché sono tanti i motivi di emozioni in questa esposizione, dove non riesco a definirli oggetti, oppure riesco a definirli in questo modo, ma intesi con determinata emozione. Non è più un passato, anzi è un invito ad averne una certa cura anche. E a proposito di luoghi e dell'origine del protagonista, parliamo anche di questo con Marinella Paderni. Questo aspetto, che è materico, ci riporta quindi a una realtà, per essere noi in Occidente, oltre la cortina di ferro. Sì, assolutamente sì, è proprio per questo che è una mostra che ha una valenza extratemporale. Cioè, nel senso che guardando indietro, guardando ieri, noi riusciamo a ritrovare proprio quelle origini, quei collegamenti per situarci oggi, per poter anche affrontare meglio la nostra storia, perché in questi ultimi decenni veramente c'è stata una grande rivoluzione. Quello che Robert Kuczmierowski vuole mettere in evidenza è proprio questa sapienza delle cose, dei materiali, delle professioni del passato, che questa modernità ha smarrito in parte e che è quello che poi crea anche un vuoto di identità. Denuncia, nostalgia, quali micro e macro sensazioni in tutto ciò? Sono delle sensazioni intense, ne parlavamo prima anche con Fricandò, che è sponsor tecnico della mostra, e vedendo tutti questi getti che sono proprio la nostra storia, il senso della nostra vita, si scopre guardandoli attraverso gli abbinamenti, le associazioni che ha fatto Robert Kuczmierowski, dei nuovi significati che quindi servono anche a noi. Certo, quante opere in mostra, se si possono quantificare? Sono più che opere, sono degli ambienti, e questo è l'aspetto interessante, e sono una decina di ambienti e ciascuno porta un contributo molto singolare, molto speciale. Quindi come percorso in mostra non parliamo di sezioni ma di ambienti. Di ambienti, sì, ambienti che proprio toccano vari momenti della storia. Ci sono dei riferimenti voluti anche all'anniversario della strage di Ustica, che sarà tra poco, e poi invece ci sono dei riferimenti proprio alla storia, come dicevamo prima, della nostra Europa. Io la ringrazio tanto e le auguro buona giornata. Grazie altrettanto anche a voi e vi auguro buona visita, venite. Grazie. non più oggetti, ma concreti simboli carichissimi di significato da vivere oltre che da interpretare. Tra l'altro Lorenzo Balbi, che a breve sentiremo, onore al merito, ha dato un particolare parallelismo, oltre che il parallelismo portato da Marinella Paderni per quanto riguarda Ustica. Bene, avremo modo di approfondire, e leggete l'articolo che trovate sul sito www.radiocittafusico.it per corredare anche il format in frequenza. Grazie per l'invito a Marinella Paderni, curatrice dell'esposizione Robert Kuzminowski Persona Anomalia, un po' difficile da pronunciare con questo dittongo, però là è tra parentesi, per da personale alla anomalia che viene identificata, ma è, come vi ho detto già più volte, qualcosa che rapisce nella portare in tutti i tempi, dimenticando quello che è la barriera spazio-temporale, anzi, ma essendone coinvolti. Mi sto mordendo la lingua perché vorrei darne una descrizione quanto mai attinente e precisa di quello che troverete, ma il mio consiglio è quello di visitare, proprio come ha anticipato la co-curatrice Paderni, gli spazi e gli ambienti, le professioni, gli oggetti simbolo, che non solo per quanto riguarda lavoro e professioni, ma veri e propri ambienti, la capacità di poter dare una continuità a tutto ciò, la quotidianità anche all'interno di questa esposizione. Allora diamo parola a Lorenzo Balbi, oltre che direttore del Mambo, anche co-curatore dell'esposizione. È veramente un'esposizione molto intensa per un periodo esposto, sarà al Mambo. Siamo con Lorenzo Balbi. Come mai e perché è arrivato questo artista a Bologna? Ciao William, buongiorno a tutti e a tutte. Siamo molto emozionati oggi perché l'inaugurazione, la presentazione della mostra di Robert Kuzminowski è per noi anche una tappa importante di un lungo cammino che abbiamo fatto con questo artista polacco, cinquantenne, nato a Łódź nel centro della Polonia, ma vive da parecchi anni a Lublino. Un artista che per tutta la sua carriera ha ragionato sulla natura degli oggetti, sulla vita degli oggetti, se c'è una vita oltre la fine dell'oggetto e quale può essere determinata come fine di un oggetto. Robert Kuzminowski ha fatto di questa poetica dell'indagine sull'oggetto dimenticato, lasciato morire, deperito, tutta la sua cifra stilistica. E quando abbiamo ricevuto l'input di ragionare sull'eredità della tragedia di Ustica a partire dagli oggetti che siamo depositati a mantenere, valorizzare, abbiamo pensato a Robert Kuzminowski come l'artista perfetto per ragionare su come questi oggetti, che evidentemente portano in sé un messaggio tragico di morte e di fine, possono in realtà ancora vivere, ancora portare significati, ancora essere riletti con gli occhi della contemporaneità. Da questo nasce la mostra di Robert Kuzminowski e queste grandi installazioni che partono proprio dall'idea di far rivivere degli oggetti con il vissuto di tutti noi. Che ritroviamo in questa colonna sonora che ho voluto portare, che riprende anche quello che può produrre come suono un un simbolo, perché faccio sempre fatica ad operare la parola oggetto, perché qui si va veramente oltre per quanto riguarda l'esposizione. Tra l'altro, installazioni costruite manualmente dall'artista utilizzando elementi e arredi in parte provenienti dal suo archivio e in parte scelti presso Fricandò Antiquariato, Modernariato e Design, che come avete ascoltato nelle parti precedenti di conversazione e partner tecnico della mostra. Un vecchio ufficio della Lufthansa, un ufficio con accoglienza per un antico cinematografo, installazione Cosmorama e qualcosa che dà emozione costante. La musica che ho selezionato è della Type Record, potrebbe essere tranquillamente all'interno di altri suoni, però ringrazio il Mambo e questa esposizione perché mi ha dato la possibilità di riportarla all'interno anche della rubrica A Regola d'Arte. Abbiamo ascoltato Handwriting, scritto a mano, di Connor, ora stiamo ascoltando Julian Neto con questa produzione, Le Fumeur de Ciel, Il Fumo dal Cielo, siamo nella Sala delle Ciminiere, tra l'altro, per cui insomma è anche la produzione Noise di Diff Center per la Type Record. Quindi questa prima parte va a conclusione per quanto riguarda i ringraziamenti, la disponibilità della co-curatrice Marinella Paderni e il direttore del Mambo, nonché co-curatore dell'esposizione che sarà fino al 29 settembre 2024 al Museo d'Arte Moderna di Bologna, il Mambo nella Sala delle Ciminiere, Robert Kuzmirovski per Suanomalia. C'è anche l'importanza dell'aspetto in un periodo che stiamo vivendo di grande velocità e mancanza di manutenzione, mancanza di quello che può essere una continuità, mordi e fuggi, usa e getta. Con l'arte non è così. Assolutamente no. Quello che mette insieme Robert Kuzmirovski è una riflessione sia sull'usciampianamente, sul portare nello spazio un oggetto e quindi farlo diventare un'opera d'arte. Ovviamente c'è una critica alla società contemporanea del consumismo e della degenerazione nell'iperproduzione di oggetti che non servono e nel lasciare andare oggetti che invece potrebbero ancora servire. Però questo è lasciato alla mente del visitatore che, entrando dentro questo grande archivio di umanità, di oggetti dimenticati, lasciati deperire, trova in sé anche una chiave di lettura. Quindi quello che suggerisce l'artista è proprio che non bisogna toccarli questi oggetti, loro stessi sono dotati di una vita, di un messaggio che può vivere ancora. In relazione alla sede espositiva, tra l'altro, mi sembra che ci sia un dialogo molto importante. Assolutamente, la mostra di Robert si inserisce all'interno della Sala delle Ciminiere del Mambo, che è di per sé stessa un luogo di memoria, un luogo particolarmente significativo. L'edificio fu costruito nel 1915-16 per volontà del sindaco Zanardi, proprio per essere una panetteria pubblica, un luogo produttivo. Quindi questa grande installazione portiere, da cui dipana un po' tutta la mostra, sta proprio anche nel recuperare questa anima produttiva di questo spazio e pensare come veramente l'arte possa essere interpretata come produzione culturale di significati. L'esposizione sarà in mostra fino al 29 di settembre, quindi avete parecchi mesi anche per visitarla e vi aspettiamo al Mambo. Grazie e buona giornata. Thank you. ambient elettronica, noise e questo tappeto musicale che ha dato colonna sonora alla prima parte della rubrica In Mostra. Quindi al Mambo sarà fino al 29 settembre Robert Kuzmirowski per sua Anomalia. Un po' di musica, pubblicità, poi si torna in diretta. Ci spostiamo in quel di Ravenna nella seconda parte. A tra poco.